E mancano sempre le giuste parole, però ci sarebbe parecchio da dire. Se vivi la vita in punta di piedi, d'accordo, non corri, però quasi voli. Giorni di pioggia, hai perso con gusto la nostra partita per darmela vinta, per farla finita. La scrivo su un foglio e questa canzone